cartellone di Elisabetta Fiorito. Quella che sentite è la voce di Cinzia Forte nella Traviata di Giuseppe Verdi. Buongiorno, un buongiorno consistente quest'oggi da cartellone che apre la stagione del Teatro dell'Opera di Roma per la direzione di Gianluigi Gelmetti, la regia e le scene di Zeffirelli. Allora, buongiorno maestro Gelmetti. Buongiorno signora. E buongiorno Cinzia Forte, che c'è, è venuta di nuovo a trovare un'amica oramai di Radio 24. Maestro, è un po' il suo arrivederci al Teatro dell'Opera, questa Traviata? Diciamo l'arrivederci di un periodo particolarmente felice che è durato 10 anni, che mi ha visto appunto come direttore musicale del teatro fino al 31 dicembre dello scorso anno e che ho continuato ancora quest'anno con 3 titoli in cartellone. E diciamo è finito già alla fine dell'anno il mio periodo, si può quasi chiamare un'era, per stare 10 anni, che il Teatro dell'Opera è un periodo molto lungo. Un po' l'ha risollevato questo Teatro dell'Opera, perché c'è sempre questo contrasto con la Scala di Milano. Ma guardi, è uno sbaglio, perché sono due. Quello che io ho cercato di fare durante il mio decennio, che ormai è già passato, e purtroppo ho saputo che già ci sono stati poi dei grossi problemi con i cambi di gestione, che non ho seguito direttamente, quindi non posso esprimere giudizi, ma è uno sbaglio, perché il Teatro dell'Opera e la Scala hanno veramente due identità diverse che non vanno confuse, sono proprio due teatri diversi, entrambi grandissimi, con due funzioni e due caratteristiche, due personalità totalmente diverse. Cinzia Forte, ti alterni sul palco con altre due soprano. Il ruolo di Violetta, qual è la difficoltà di questo ruolo? Perché insomma tutti quanti noi siamo innamorati di Violetta, di questa donna che rinuncia all'amore, di questa persona che prima libera, poi invece viene colpita dalle frecce di Cupido. Sì, esatto. Beh, Violetta è un personaggio enorme, da sempre presente nel nostro immaginario, nella nostra cultura. Si può definire un'icona del romanticismo, perché sono presenti tanti caratteri, la passione, il sacrificio, la generosità di questa donna. Quindi è un banco di prova per questi soprano, perché è molto impegnativo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista interpretativo, quindi richiede una grande maturità per affrontare certe difficoltà e rendere quindi il personaggio nel modo migliore. È una figura affascinante che esordisce nella scena del Brindisi come la tipica eroina del melodramma, determinata, piena di sicura di sé, ma progressivamente mostra la sua fragilità, la fragilità di donna sola, bisognosa d'amore. La fragilità di donna sola, bisognosa d'amore. Sentiamo. Sempre lieta, ne ritrovi. Maestro Gelmetti, che emozione si prova a dirigere la Traviata? Ma guardi, Traviata è un'opera particolarissima, è una delle opere, tra virgolette, proprio. Prima parlava Cinzia dell'immaginario, delle icone, tutto. Traviata è proprio anche come opera, non solo il personaggio di Violetta, Traviata è l'opera, è uno degli emblemi dell'opera italiana. Oggi diremmo quasi una compilation di motivi. Io credo che se lei prende un qualunque italiano, diciamo, non solo italiano, parliamo di italiani adesso, anche non cultore di opera, non melomane, non appassionato, e le fa sentire di Provenza, il mare, il suor, sempre libero, il Brindisi, tutti la conoscono perché fa parte del nostro DNA. Quindi dirigere Traviata bisogna. Possiamo dire, o problemi o cose belle di Traviata, insomma, dirigendola, è quello di combinare questa, di riunire in se stesso questo spirito popolare, ma proprio nel senso più aristocratico del termine popolare, questa nobiltà della musica per il popolo, il lato popolare della Traviata con lo studio, con l'approfondimento, con naturalmente mai lasciarsi andare alla routine, alle cose già fatte e già scontate. Riuscire a unire queste due anime di Traviata è una delle sfide più affascinanti e più belle. E la regia di Zeffirelli che cosa comporta per un direttore d'orchestra? Guardi, la regia di Zeffirelli è sempre, ormai ne ho fatti tanti di lavori insieme a Franco, la regia di Zeffirelli è sempre un involucro per l'opera, un involucro importante. Si fa bene un'opera dentro il contenitore zeffirelliano. Perché? Perché proprio ti crea un substrato, ti crea un contemporaneamente uno stato d'animo nel pubblico estremamente positivo e giusto per far musica. Allora, maestro Gelmetti, è un arrivederci, quindi la rivedremo sul palco dell'opera. Guardi, la prima volta che ho diretto a Roma credo che sia 35 anni fa. Allora, circa, c'è tempo, c'è gli tempo. Gli ultimi 10 anni sono stati un rapporto particolare. Adesso quest'anno mi riposo un po', gli anni futuri vedremo, continuerà il rapporto, ma naturalmente in altro modo. Ma noi la vogliamo perché ha portato tantissime persone all'opera, come diceva lei, con molte persone si sono poi riavvicinate, no? Anche a Roma, finalmente a questo mondo che appunto generalmente viene un po' visto come un mondo milanese. No. Allora, arrivederci. Grazie mille. Arrivederci, maestro. Allora, Cinzia, noi abbiamo rubato questi brani da internet, per cui non so se la tua voce si sentiva proprio bene, bene, bene. Sì, non so dirlo perché anche da qui non riesco bene. Ma noi ci sembrava fantastica, come, perché ci hai fatto sognare. Noi, sai, tutte quante le bambine, secondo me, vogliono fare le cantanti quando sono bambine. Poi purtroppo bisogna rassegnarsi alle voci che si hanno. Allora, però nella voce di Violetta ci sta un po' di polemica. Ecco, io non capisco proprio i tecnicismi, se ci vuoi aiutare. Che cosa sono questi sovracuti di tradizione? Cioè, a un certo punto si sforza, il soprano si sforza, sono scritti no. Nell'opera di Verdi, ecco, ci vuoi spiegare? No. Dunque, l'opera, così come l'ha scritta Verdi, prevede i finali, soprattutto delle arie, dei duetti, senza delle note troppo acute, diciamo così. Invece nella tradizione si è sempre fatto, cioè molti soprani, tenori hanno aggiunto delle note molto alte, molto acute, per dare sfoggio anche un po' della propria capacità tecnica vocale. E negli ultimi tempi questa pratica, diciamo, che è stata un po' tolta, un po' ripulita, diciamo, anche se per la gioia dei protagonisti, anche dei cantanti, tutto sommato, talvolta vengono messi. E in Traviata, nell'aria, soprattutto quella del primo atto, ci si aspetta un po' il mi bemolle, questa aria, questa nota culminante. Ci sarà l'aria. Questo mi bemolle all'Opera, ecco, di Roma, ce lo vuoi dire? In questo caso non ci sarà, ma è una scelta di assoluto rispetto, nel senso che Maestro Gelmetti, ecco, adesso non c'è più, potevamo parlarne con lui, aveva detto nella conferenza stampa che molti cantanti, in effetti, per emettere questo suono molto acuto, tolgono delle battute, tolgono delle note precedenti per spiccare il salto. Allora, Cinzia Forte, che ci è venuta a trovare questa volta nella Traviata di Verdi, un'amica oramai ti possiamo considerare di Radio 24, l'arrivederci del maestro Gianluigi Gelmetti per l'apertura della stagione all'Opera di Roma, le repliche fino al 31 dicembre. Cartellone. Quello che mi chiedevo, anche se forse non ha molta importanza, ma qual è il motivo del litigio? Su questo Bruno non ha voluto dire nemmeno una parola. Beh, Bruno non ha voluto far entrare Ferdinand nella sua banda. Perché Bruno ha una banda? Sì, e gli ha anche dato del leccaculo. Tu sapevi che Bruno ha una banda? No, ma la cosa mi entusiasma. Perché? Perché anche io ero capobanda. Anch'io? Ma cosa vuol dire? Beh, 4-5 ragazzetti sotto di te, pronti a tutto. Un po' come Ivano. Esattamente, sì, proprio come Ivano. Vorrei proprio vedere chi è che conosce Ivano al giorno d'oggi. Ci saranno altri modelli, signora, tipo Spider. No. Comunque una cosa è chiara. Scusate, ma voi ne sapete molto più di noi. In realtà Ferdinand non è stato così muto come volevate farci credere. E poi cosa sarebbe la storia del leccaculo, scusate? Giusto, la cosa non mi riguarda, poi l'argomento in discussione non era questo. È difficile entrare nelle storie dei bambini. Sì, certo, non sono fatti nostri. Eh no. E avete riconosciuto sicuramente una voce molto nota, quella di Silvio Orlando, che insieme a Anna Bonaiuto, ad Alessio Boni e a Michela Cescon è in scena al Teatro Eliseo con una commedia a dir poco esilarante, Il Dio della Carneficina di Yasmina Reza. Buongiorno Silvio. Buongiorno. Uno spettacolo abbastanza graffiante, perché queste due coppie si riuniscono perché un bambino ha ferito un altro bambino, e quindi sono due coppie di genitori, e tutto all'inizio è all'apparenza tranquillo e molto civile nella Francia contemporanea, o sbaglio? Sì, insomma, tutto rientra nei canoni del bon ton borghese, insomma, il tentativo di francese, insomma, di rientrare e comporre civilmente una piccola questione che potrebbe essere piccola, ma poi si ingigantisce con il passare delle ore. Che si ingigantisce col passare delle ore. Voi siete tutti e quattro sul palcoscenico per un'ora e un mezzo, un'ora e un quarto, sì. Un'ora e mezzo. Sì, un'ora e mezzo, sì. Un'ora e 27, quella sera lì che l'ha visto lei era un'ora e 27, varia un po' a seconda delle reazioni del pubblico. Varia un po' a seconda delle reazioni del pubblico, che però ride moltissimo, perché piano piano, cioè, è tipo un crescendo, sembra un po' Chi ha paura di Virginia Woolf, mi ha ricordato vagamente come commedia. Sì, spesso hanno paragonato un po' l'andamento della vicenda a quel testo lì, di Albi. Insomma, sì, questo è un fenomeno internazionale. Yasmin Reza non è molto conosciuta in Italia, ma è un nome della drammaturgia contemporanea molto importante. Adesso in questo momento è rappresentata in, non so, 50 paesi in tutto il mondo, da compagnie sempre di altissimo livello, e soprattutto Polanski, prima di essere arrestato, stava traendo una versione cinematografica da questo testo che noi portiamo in scena con Tom Cruise. Adesso vediamo un po' come va a finire la vicenda dello chalet Svizzera quando lo fanno uscire. Ma insomma, ognuno poi paga per le sue colpe, anche se sono colpe molto passate, però rimangono colpe. Anna Bonaiuto. Buongiorno. Sulla scena Véronique, moglie di Michel, un po' idealista questa moglie, un po', insomma, Michel è un commerciante, quello che si potrebbe definire forse un bravo uomo. Lei cerca invece di essere intellettuale, Véronique. Sì, è come tutti gli altri personaggi, improvvisamente ha dei lati positivi, dice delle cose nelle quali tutti possiamo condividere, e poi ha dei comportamenti che sono assolutamente irrazionali e compulsivi, e questo capita a tutti più o meno, per cui diciamo che il pubblico ha questa reazione di stare per 5 minuti con un personaggio e dire ah sì lui ha ragione, dopo 5 minuti cambia idea, per cui è un continuo stare in tensione del pubblico. e di riconoscimento, anche di riconoscersi in questi quattro figuri. In questi quattro figuri, e Veronique è una donna abbastanza passionale, perché difende con le unghie e con i denti i suoi testi di pittura, che vengono poi un pochino rovinati da un disgrazia, diciamo, pomeridiana. Un piccolo incidente che non vogliamo svelare troppo, di Annette, che è la moglie di Alain, interpretato poi da Alessio Boni, appunto, e Michela Cescone, che rappresentano un po' la coppia giovane, no? Sì, sì. Un po' borghese, forse più tradizionalista, mentre la coppia che di Michelle e di Veronique è un po' forse quella più intellettuale, di sinistra. Sì, diciamo, apparentemente la moglie più che altro è quella, appunto, che difende i diritti civili, scrive libri sull'Africa e tutto, poi nei comportamenti quotidiani ovviamente il comportamento è uguale a tutti, gli altri, è trasversale. Così. Basta toccare un libro. Libro o il figlio, che comunque è sempre meglio degli altri figli, no? Che questa è una cosa tipica della famiglia, pensare che i figli hanno sempre ragione anche quando picchiano i professori, no? Siamo in questa fase ora. E Yasmin Reza lo denuncia, ma denuncia anche un altro malcostume, per esempio quello lì che se si sta in quattro in un salotto come siete voi sul palcoscenico, poi c'è Alain, che è un po' sbruffone, no? Un avvocato che continua a ricevere telefonate perché c'è un contratto da chiudere, e questo telefonino suona finché succede qualcosa. Sentiamo. No, nessuna intervista prima del comunicato. Io esigo che lei interrompa immediatamente questa manovra esasperante! Senti, non parla più di me. Ecco Anna! E il telefonino finisce nell'acqua. Sentiamo cosa succede subito dopo. C'è da ricoverare, non ti posso fregare. C'ho tutto in quel cellulare, ci ho messo ora a configurarlo anche nuovo. Ma come cazzo? È un gesto inammissibile, inconcepibile. Tutta la mia vita ce l'ho. Ma forse riusciamo a salvarmi. Bisogna aprirlo. Cosa aprire? Bisogna tirare fuori la batteria e tutto, guardi come rido, guardi come sono arrivato, perché a un certo punto Silvio Orlando, appunto, prende in mano il phon per cercare di, che cosa fare, Silvio? Ma insomma, questo phon è un altro il quinto protagonista in realtà della vicenda, no? Se io sono un tipo un po' meticoloso, un po' preciso, allora cerco di salvare questo cellulare che è finito in un vaso da fiori colmo d'acqua e cerco di asciugarlo al meno peggio, insomma, di salvare il salvabile, ecco. Quindi niente, insomma, beh, sono una serie di gag abbastanza esilaranti con questo meccanismo congegnato così bene dalla Reza, insomma. Perché, ecco, la cosa è che praticamente tra battute si arriva poi a un certo punto in cui i personaggi cominciano a bere il rum e un pochino a sragionare. Questa è la realtà. Cioè, tutta questa bella patina di questo incontro molto borghese, molto molto con aplomb britannico, diremo francese, si sgretola via via che il testo procede, che praticamente il dramma procede. Beh, sì, insomma, in realtà una cosa che ci può confortare, non so fino a che punto, insomma, ci conforta un pochino, è che oramai la borghesia è uguale un po' dappertutto. Noi pensiamo sempre di essere un po' peggio rispetto agli altri paesi, soprattutto d'Europa, poi in realtà, andando a vedere, scavando, poi ritrovi gli stessi vizi un po' dappertutto. Insomma, è un po' l'impossibilità di stare assieme, questa insofferenza che è la vera malattia sociale che ci contagia tutti, è una sorta di misantropo al quadrato, sdoppiato in quattro personaggi, questa impossibilità di farsi piacere agli altri. Insomma, Anna Bonaiuto, qual è la battuta che le piace di più? Guardi, ce ne sono talmente tante che non mi viene in mente in questo momento. Forse quella che mi piace di più, non so per quale motivo, è quando lei, appunto, dopo l'incidente, diciamo, guarda i suoi libri e urla: ma che cosa facciamo adesso con Pinturicchio? Che insomma fa capire tutto quello che c'è dietro a questo personaggio. Il Pinturicchio è più importante di tante altre cose. Del fatto che magari Annette, che è incinta, si è sentita male. E Silvio Orlando, la battuta che le piace di più? Quella sul vestito da intellettuale? Ma io quella faccio sempre un po' fatica a dirla, perché insomma sento che la gente insomma ride moltissimo, certe volte applaude anche, insomma, quindi un po' un'area di reazione contro un po' i finti intellettuali di sinistra, quindi quella faccio sempre un po' fatica a dirlo, però certo funziona tantissimo, cioè, poi no, insomma c'è tutte le tirate sul criceto, perché un altro dei protagonisti dello spettacolo è un criceto che io nel mio orrore quotidiano ho abbandonato per strada perché sono disfatto alla meno peggio, e quindi lì c'è tutta una lunga tirata su questo criceto di cui mi viene colpevolizzata alla fine, e lì insomma mi diverto abbastanza a farlo. Il Dio della Carneficina di Yasmina Reza, ricordiamo, è in scena fino al 10 gennaio al Teatro Eliseo di Roma, come abbiamo sentito, con Silvio Orlando, Anna Bonaiuto, Alessio Boni, Michela Cescon, un quartetto esilarante, veramente divertente, un testo che ci fa capire anche moltissimi dei nostri difetti. Cartellone. Quel giorno di novembre il re riconobbe il declino, il cuore batteva più lento dei 200 colpi al minuto, spinta che dà ossigeno agli slanci in salita e li fa superare in leggerezza. Gli zoccoli del camoscio sono le quattro dita del violinista. Vanno alla cieca e non sbagliano millimetro. Schizzano su strapiombi, giocolieri in salita, acrobati in discesa, sono artisti da circo per la platea delle montagne. Gli zoccoli del camoscio appigliano l'aria. Il callo a cuscinetto fa da silenziatore quando vuole, se no l'unghia divisa in due e nacchera di flamenco. Gli zoccoli del camoscio sono quattro assi in tasca a un baro. Con loro la gravità è una variante al tema, non una legge. Il re li poggiò all'alba nella nebbia fitta da non vedere a terra e si ritrovò incerti. Così aspettò che il cuore spingesse i colpi fin dentro le unghie e il giorno crescesse insieme ai battiti. Non voleva cedere. Chinare il suo corno sinistro davanti a un maschio minore, solo più fresco di forze. E quello che sentite sono le parole di Harry De Luca, Il peso della farfalla, questa sera alle 21 a Vinovo Castello, Piazza del Rei, uno spettacolo firmato con la regia di Renzo Sicco. Buongiorno Renzo. Buongiorno. Allora, un testo abbastanza impegnativo, abbiamo sentito, molto poetico. Di che cosa parla? Perché sapevo che Harry De Luca usa poi le metafore per giungere a farci vedere la realtà in un altro modo. Beh, diciamo che il testo è il confronto fra un cacciatore e un camoscio, e quindi fra il mondo degli umani e quello degli animali, ma soprattutto è la congiunzione dei due personaggi, perché entrambi sono in età avanzata e, come si dice, alla fine della corsa, lo sanno, con due conoscenze differenti. Tutto questo avviene in un luogo che è la montagna, un luogo che è distante dai nostri ritmi di vita quotidiana, ma soprattutto è distante dalla perdita di valori, ancora delle regole, diciamo, millenarie che si conservano. Quindi Harry ha scritto una fiaba sulla esistenza, una fiaba alta evidentemente, come diceva lei, con grande poeticità, entrando in profondità su uno degli argomenti più tabù della nostra società, che è quella della morte. È un testo che viene praticamente letto a teatro con un accompagnamento col violino e il pianoforte, con sì, musiche originali di Brian Eno. Insomma, sì, un'atmosfera particolare si presenta. Diciamo che abbiamo lavorato quasi come a una composizione sinfonica, nel senso che le parole abbiamo cercato di dare alla ricchezza di queste parole, che sono molto vicine, diciamo sono su una linea di frontiera fra letteratura e poesia, abbiamo cercato di dare una risonanza che le rendesse teatrali e che li immergesse dentro un tappeto sonoro che è molto intenso e molto pertinente a quello che il racconto sviluppa. La presenza appunto di un pianoforte, di un violino, dà una veste quasi da camera a questo spettacolo che in questa fase, siamo nella fase, noi presentiamo diciamo un'anteprima di uno studio che è in corso, il debutto vero e proprio dello spettacolo l'abbiamo previsto per aprile, è ancora in una fase di lettura, ma poi lasceremo le pagine e diventerà direttamente interpretazione degli attori. Che sono Sax Nicosia, Gisella Bain e Marco Peirolo. Un'atmosfera particolare in un castello, qual è la cosa che l'ha colpito di più di questo testo? C'è un verso particolare? Beh, diciamo che la cosa che mi ha colpito di più gliela racconto, perché io sono stato un privilegiato, sono molto amico di Harry De Luca e sono stato il primo lettore in assoluto di questo testo. L'ho letto a settembre in un incontro, Harry mi ha dato le prove di stampa e l'ho letto in un luogo che diciamo è il meno consono a una lettura. L'ho letto nella sala d'attesa dell'aeroporto di Malpensa, perché me lo portavo in borsa da alcuni giorni, erano giorni molto intensi di lavoro, di viaggio e tutto quanto, e quindi l'ho letto in un luogo di frastuono assoluto e questo testo ha fatto silenzio intorno a me. C'era tutto quello che accadeva, ma c'ero io da solo con questa storia, quindi credo che questa sia la forza più grande che uno scrittore può richiedere a quello che fa, quello di stabilire un contatto assoluto fra la sua scrittura e il suo lettore. Un rapporto di silenzio. Ora sentiamo come si crea il silenzio anche all'aeroporto di Malpensa, come ci dice Renzo Sicco. L'uomo si stese sui sassi sopra il precipizio, allungò il collo oltre il bordo e fiutò l'aria all'uso dei camosci. Fu sorpreso di annusare l'aroma di mandorla. I sensi danno un ultimo acume nel tempo finale della vita, una fiammata, lo sapeva, e aggiunse la strana capacità del suo odorato alle stanchezze di quei giorni. Stava affannando, non era solo sforzo, ma un principio di cedimento. Steso sui sassi riprendeva il posto di supremazia, spiava senza essere visto. Sopra di lui si perdevano le grida degli uccelli. Di certo non avvisavano i camosci dell'intruso, gli uccelli sopra di lui stavano dalla parte della caccia. Ricordiamo allora Il peso della farfalla, scritto da Harry De Luca, e abbiamo sentito Renzo Sicco, il regista. Questa sera uno studio ci ha precisato a Vinovo Castello, Piazza del Rey, in provincia di Torino, alle ore 21. Grazie Renzo. Grazie a voi. La vita di Don Bosco, il santo che ha fondato i Salesiani e il primo oratorio in Italia ben 150 anni fa. La vita di Don Bosco è sul palcoscenico da settembre, oggi e domani è al Teatro Ciak di Milano. Il protagonista è un volto noto della televisione italiana, un cantante che si cimenta in questo ruolo abbastanza difficile. Marcello Cirillo, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a te. Allora, che difficoltà c'è a fare un santo, un buono per eccellenza? Ma, come hai detto tu nella presentazione, è un ruolo molto difficile, perché noi veramente più che rappresentare il santo cerchiamo di rappresentare l'uomo. L'uomo è stato una figura molto importante per la società di quel periodo, parliamo della metà dell'Ottocento, ma un uomo che da allora ad oggi è riuscito a creare un impero d'amore, le tracce di tutto quello che ha fatto Don Bosco esistono anche oggi nelle case famiglia, negli oratori di tutto il mondo, dove ancora oggi i salesiani danno delle risposte a dei vuoti materiali ed esistenziali che esistono tra alcuni ragazzi. Quindi una chiesa vicina ai ragazzi, perché fa fare sport, fa fare attività sportiva e riunisce poi in una famiglia ideale quello che sono i ragazzi anche di strada. Sì, io sono andato anche a visitarle le case famiglia qui a Roma e sono commoventi, veramente. È commovente vedere lo sforzo che fanno gli operatori sul territorio. E il viso di questi ragazzi, che in effetti non hanno una famiglia, che magari vengono via da guerre oppure scappano da situazioni pericolose familiari, riescono a ritrovare amore e non solo, perché poi Don Bosco ha insegnato anche a essere molto pratici, pragmatici, quindi insegnare loro un mestiere, cercare di inserirli nel mondo del lavoro, quindi non fare assistenzialismo, ma proprio reintrodurli nella società. Ma dal pianista un po' scanzonato della televisione al ruolo di un santo ce ne corre, Marcello? Io sono un gemelli, quindi ho varie sfaccettature del mio carattere. In effetti la solarità che di Don Bosco, perché non dimentichiamo che lui era una persona molto divertente, molto solare, si divertiva a fare giochi di prestigio con i ragazzi, giocava a pallone, ha inventato le prime bande, quindi c'è una parte di Don Bosco che appunto che rappresenta il divertimento e la solarità, e quella parte mi viene molto, molto facile. E poi ho studiato molto invece per rappresentare la parte più profonda, più intensa di Don Bosco. Quanto dura lo spettacolo? È un musical? Quante persone ci sono sul palcoscenico insieme a te? Siamo in 18 persone. La nostra non è un vero e proprio musical, perché il vero e proprio musical è tutto cantato dall'inizio alla fine. La nostra è proprio una commedia musicale all'italiana, dove ci sono delle parti cantate, delle parti recitate, delle parti ballate. E allora sentiamo un altro brano di questa commedia musicale. Se io fossi un monsignore o del clero, un superiore, voi vedreste l'importanza che ostenterei. Se io fossi un gran prelato, un'eccellenza, un porporato, noteresti la sufficienza che avrei. Incederei con passo austero, incederei dall'alto in basso. Io ecco, questo è un po' il contrasto che c'è sempre tra la chiesa povera e la chiesa ricca, Marcello. Eh sì, anche perché a Don Bosco hanno anche proposto di fare carriera e lui non ha voluto diventare vescovo, e proprio noi a questo punto della sua storia cantiamo questa canzone che è Operaio di Dio, dove lui dice: io potrei essere un monsignore, potrei essere questo, potrei essere un gran prelato, ma io sono un operaio di Dio, io voglio stare in mezzo alla gente, voglio stare in mezzo alle persone, le voglio aiutare. E la politica a lui non interessava. Meno male. Allora, ricordiamo, Marcello, visto che è la puntata prenatalizia, insomma, il messaggio di Don Bosco, qualunque religione abbiano i nostri radioascoltatori, può essere un messaggio molto molto importante in questo Natale che arriva. Ricordiamo Marcello Cirillo nel ruolo di Don Bosco, il musical, questa sera e domani a Milano al Teatro Ciak, chiaramente questa sera alle 21 e domani alle 16. Poi mi dicevi che il 22 chiudete al Teatro delle Celebrazioni di Bologna, ma la tournée poi riprende. Riprende, che anche l'altro anno abbiamo chiuso a dicembre e siamo ripartiti a febbraio. Riprenderemo sia a febbraio, arriveremo fino a prima dell'estate, facendo anche delle arene all'aperto, perché è un musical che si... insomma, anche all'aperto è bello, funziona, piace molto. L'altro anno siamo stati in giro per l'Italia appunto fino a fine giugno. Don Bosco, Teatro Ciak, oggi e domani a Milano. Cartellone. E adesso andiamo in provincia di Viterbo, dove questo sabato si conclude la rassegna del teatro in civile, cioè il teatro che diventa in civile per parlare di un'Italia dimenticata, rimossa e difficile, con Sangue dal naso, Scuola Diaz, Genova 2001, un testo di Andrea Maurizi. Buongiorno Andrea. È un testo che tu racconti quello che è successo all'interno della Scuola Diaz durante il G8 di Genova? Sì, parlo un po' in generale di tutte quante le vicende che hanno accompagnato il G8 di Genova. Lo spettacolo è tratto soprattutto dal libro Genova nome per nome di Carlo Gubitosa, che è forse il libro, l'inchiesta giornalistica insomma più ampia, più valida su tutti i fatti del G8. E parlo un po' di tutte le vicende che sono accadute a Genova in quella settimana del 2001. Poi l'idea dello spettacolo è nata quando una mia amica per caso ha portato un libro alla sede della compagnia. Nel libro c'erano le registrazioni di Radio Gap, che era la radio che trasmetteva all'interno della Scuola Diaz. Sentendo quelle registrazioni, sentendo poi la diretta, perché hanno trasmesso in diretta di fatto l'irruzione della polizia all'interno della sede della radio, con la radio che ha cessato le trasmissioni, lì è diventato necessario fare questo spettacolo, insomma, anche se non è lo stato a Genova. Ricordiamo Teatro dei Calanchi, Lubriano, in provincia di Viterbo. Questa sera si chiude la rassegna Teatro in Civile con un testo di Andrea Maurizi, Sangue dal naso, Scuola Diaz, Genova 2001, per non dimenticare. E adesso andiamo a Londra, sì, per chi vuole trascorrere le vacanze in Inghilterra c'è per noi Michela Daghini, la nostra corrispondente, che ci racconta l'atmosfera londinese prenatalizia. Che cosa succede? Dunque, ben trovata Elisabetta, te e i tuoi ascoltatori. Vi parlo da una freddissima Londra, si sentirà anche un po' dalla voce, il freddo è arrivato da qualche giorno, è ufficiale, ieri anche nevicato. E sotto Natale Londra è bellissima, gli italiani lo sanno bene, sono già arrivati molti in queste ultime due settimane, lo si sente per strada, si sente parlare spesso italiano. La città si trasforma, ci sono queste illuminazioni bellissime, soprattutto in centro, l'atmosfera è molto intensa, c'è la musica natalizia ovunque, feste di Natale in continuazione dal 1 dicembre, loro festeggiano. Ci sono i negozi naturalmente strapieni di ogni meraviglia, piste di pattinaggio ovunque, c'è il tradizionale alberone in Trafalgar Square, alto 20 metri, questo tradizionale albero che ogni anno la Norvegia dal 47 regala all'Inghilterra in segno di gratitudine per il supporto dato dall'Inghilterra nella Seconda Guerra Mondiale. Quello è un po' il centro forse della città, perché sotto questo alberone nella grande piazza si ritrovano a ogni ora del giorno cori che cantano i tradizionali carols, questi canti di Natale, ed è davvero suggestivo sotto questo grande albero illuminato. Poi si beve il vin brûlé, ci si ritrova, ci sono i mercatini e ci sono anche queste piste di pattinaggio, ce ne sono davvero molte. Ne segnalerei almeno due che sono le più forse famose, grandiose. Una è quella al Natural History Museum, quindi a South Kensington in centro, davanti alla sede molto bella di questo museo viene allestita questa pista. E poi tra le più belle piste segnalo senz'altro quella di Somerset House sul fiume, con questa pista allestita ogni anno all'interno di questo meraviglioso palazzo del Settecento. Immaginatevi com'è suggestivo, per chi non l'ha visto assolutamente un must, con un grande albero di Natale addobbato da Tiffany. Ci sono anche molti spettacoli per gli italiani che vengono a Londra, ce ne vuoi consigliare qualcuno? Segnalerei, per chi ancora non avesse provato questa esperienza, di andare a vedere una panto, che sono questi allestimenti di spettacolo di teatro che incorporano canzone, ballo, buffoneria e satira. Tendono ad essere basate liberamente sulle favole per bambini tradizionali ed è un genere che ha una serie di convenzioni che poi vengono rispettate in ognuno di questi allestimenti. Quindi ad esempio il protagonista principale maschile interpretato da una donna, la donna anziana interpretata da un uomo vestito da donna, quindi in modo grottesco. grottesco, con parrucconi, trucco pesante, costumi eccessivi. C'è un doppio piano di lettura, perché la storia è quella semplice per i bambini, per cui loro si divertono, però ci sono sempre allusioni anche un po' più piccanti, un po' più maliziose, che sono poi quelle che naturalmente vengono colte solamente dal pubblico adulto, quindi le famiglie si divertono da pazzi. Sicuramente Lepanto, tra l'altro ne segnalo una che sta andando veramente sold out con Pamela Anderson al New Wimbledon Theatre, che è stata chiamata non certo per le sue doti di straordinaria attrice, immagino, ma ha fatto comunque aumentare le vendite, pensate, dell'800%, perché è sempre previsto un personaggio popolare in questi spettacoli. Poi vi segnalo ancora lo spettacolo di Keira Knightley, la duchessa, no? La bella attrice che ha interpretato la duchessa e tanti altri film. Lei è andata in scena proprio 2 giorni fa, il debutto ufficiale per la stampa, con un misantropo di Molière rivisitato al Comedy Theatre. In realtà era molto atteso questo debutto, perché lei è una vera star, ma l'hanno massacrata. Sono uscite oggi le recensioni, parlano di una specie di manichino ambulante totalmente inespressivo, inadeguato. Poi c'è Arturo Bracchetti, dunque un italiano tra noi, con i suoi trasformismi al Gary Theatre a Charing Cross. Allora Michela, facciamo così: se tante volte dovessi venire a Londra, ci ritroviamo sotto l'albero di Trafalgar Square a bere un po' di vin brûlé. Assolutamente, vi aspetto lì. Ciao Elisabetta. Il San Giovanni Battista di Leonardo da Vinci torna a Milano per un mese. Grazie ad una collaborazione tra ENI e Comune di Milano, il quadro viene prestato dal Louvre di Parigi per consentire al pubblico italiano di vedere l'opera più discussa e controversa dell'ultimo periodo di Leonardo. Il Battista sarà in mostra fino al 27 dicembre a Palazzo Marino. Il progetto è stato curato da Daniela Storti e Valeria Merlini. Sentiamo Valeria Merlini al microfono di Adriana Fracchia. A Palazzo Marino, dove l'anno scorso la conversione di Saulo di Caravaggio ha ottenuto uno straordinario successo, ospita di nuovo un'iniziativa di questo tipo, incentrata sull'esposizione unica di un capolavoro, intorno al quale si possono costruire discorsi culturali, discorsi di riferimento anche relativi appunto alle committenze, al stato di conservazione, al periodo di produzione, alla storia dei pittori, e tutto questo viene fatto con una focale concentrata su un'opera unica. La caratteristica di questo tipo di esposizione è quella appunto di avere un'attenzione particolare verso il pubblico, cioè noi abbiamo un gruppo di restauratori in particolare che seguiranno i visitatori alla mostra e forniranno informazioni legate all'opera appunto e a tutto quello che le ruota intorno, dando così un tipo di informazione personale, cioè noi cerchiamo di lavorare in modo contrario, noi diciamo contrario all'audioguida, non perché l'audioguida abbia nulla di male, per l'amor del cielo, è stato un passo avanti nella gestione dell'informazione all'interno dei musei, ma l'audioguida fornisce un messaggio standard, l'appoggio al pubblico fatto in mostra fornisce invece un tipo di risposta personale alle esigenze personali del pubblico. Il pubblico è molto eterogeneo e quindi ha delle esigenze intellettuali assolutamente differenti. È una tavola e dunque è sul fatto che sia l'ultima. Devo dire che questo è uno degli scontri più appassionanti tra gli storici dell'arte e gli studiosi, perché in realtà uno degli aspetti misteriosi che avvolgono questo dipinto è che in realtà di quest'opera non si sa quasi nulla di certo. Noi sappiamo di certo che fu probabilmente uno degli ultimi dipinti di Leonardo, se non l'ultimo. Sappiamo che Leonardo lo portò in Francia con sé quando si ritirò ad Amboise, ospite di Francesco I, e quindi sappiamo che è un dipinto da cui lui non si è voluto separare mai, però non ci sono notizie sulla committenza e quindi si è anche sviluppata tra gli storici dell'arte e i critici l'idea che fosse un'opera meditativa, legata a un'esigenza personale di concentrazione di Leonardo nei confronti di questo soggetto. Si sono fatte molte ipotesi, ma devo dire che nessuna finora ha un riscontro documentario sufficiente per renderla definitiva. Questo è un aspetto in realtà molto stimolante, perché in qualche modo aumenta l'attenzione verso la ricerca, verso lo studio appunto sia iconografico che documentario sulla storia dell'opera. E anche per oggi è tutto, anche per questo sabato è tutto. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Tutta la redazione di Cartellone vi augura buone feste e buon Natale soprattutto. Noi ci risentiamo il 26. Mi raccomando, non mangiate troppo.